Letture di Radio 24. L'inno nazionale austriaco, che nel primo verso recita «Patria sei tu di grandi figli», è considerato troppo maschilista dalle deputate del Parlamento, che hanno chiesto e ottenuto che venisse modificato, introducendo accanto a figli anche la parola figlie. Ma coi tempi che corrono, il Parlamento non ha proprio niente di più importante da discutere? Butta lì un lettore di uno dei tanti forum su internet che da alcuni mesi si occupano dell'argomento. In realtà, la questione è ben più annosa, ma solo da quest'estate il dibattito sulla correttezza politica e soprattutto di genere dell'inno nazionale austriaco ha cominciato a pervadere capillarmente i media e le conversazioni da bar. Da quando, cioè, con un colpo di mano, le deputate del Parlamento sono riuscite a far mettere all'ordine del giorno un emendamento al testo dell'inno per ridurne il sapore squisitamente virile e riequilibrarlo nel senso della parità fra sessi. Un'azione trasversale a centrodestra, centrosinistra e verdi che ha spiazzato i colleghi maschi. Innanzitutto della parte destra dell'emiciclo, quella cui appartiene l'iniziatrice della proposta, la parlamentare Maria Rauch Kallat, altrimenti nota per l'invito alle donne a sposare uomini danarosi, onde risolvere il problema della pensione. Nessuno ha il diritto di cambiare un testo poetico, ha sbottato il suo collega di partito, nonché ministro delle scienze Karl-Heinz Töchterle. Sarebbe come modificare una scultura. Anche fra i colleghi degli altri schieramenti la sorpresa si è mescolata allo scetticismo e a battute acidule sulla pretesa di sbianchettare un testo in vigore ormai dal 1947, solo per riscriverlo all'insegna della gender correctness. Visto che a pari funzioni le donne ancora vengono pagate molto meno degli uomini e che una volta in pensione prendono vitalizi da fame, accanirsi su un paio di parole è semplicemente cinico, ha chiusato Heinz Christian Strache, successore di Haider alla guida dell'estrema destra. Già negli anni 90 un'iniziativa per un inno politicamente corretto era stata tentata invano da una parlamentare socialdemocratica, Joanna Donal. Nell'ultimo scorcio del 2011, invece, l'inusitata alleanza tripartisan e l'agguato tenuto nascosto con femmine e artifici sino al momento di agire sono riusciti a imprimere alla legge un iter lesto invincibile. Nulla ha potuto il ricorso degli eredi di Paula Preradovic, la poetessa che appena dopo la guerra vinse tra 1800 candidati il concorso per il testo del nuovo inno. Il giudice chiamato a dirimere la questione ha infatti regalato piena legittimità al progetto di legge. Negli ultimi 60 anni la consapevolezza sessuale è cambiata, tanto da far sì che il concetto di cittadino o di austriaco non comprendano più automaticamente quello di cittadina o di austriaca. E non vi è violazione del diritto d'autore. Preradovic ha ceduto il testo allo Stato. Nulla ha potuto anche la valanga di interpellanze mirate ad appurare l'onere economico degli emendamenti all'inno. È una legge a costo zero, è stata l'unanime risposta di tutti i dicasteri chiamati in causa. Risultato? 192 voti a favore e 39 contrari hanno decretato che dal 1 gennaio 2012 l'inno nazionale austriaco sarà diverso. Nella prima strofa non si canterà più «Patria sei tu di grandi figli», bensì «Patria sei tu di grandi figlie e figli», mentre i cori fraterni della terza strofa diverranno cori di giubilo. Un orrore dal punto di vista estetico, è stato il commento di Franz Patoka, del Dipartimento di Germanistica dell'Università di Vienna, che ha trovato una sponda in Gerhard Ruiz, presidente dell'Associazione degli Scrittori. Invece che rabberciare, non sarebbe meglio riscriverlo tutto? Perché, inviolati dai legislatori ma non dalla rete, sono rimasti scogli insormontabili per il traguardo di un testo del tutto neutro. Prima di tutto, la parola Vaterland, patria, nella terza strofa, di cui però, obietta una commentatrice sul web, in un inno non si può proprio fare a meno e che non si può cambiare in Mutterland, perché questo è un lemma già occupato da un altro significato. O il paese delle cattedrali della prima strofa che mal si sposa alla realtà di un'Austria ormai multireligiosa. Già che ci siamo, non sarebbe meglio metterci anche sinagoghe e moschee? Esordisce un altro internauta. Portata a casa ormai una prima vittoria in Parlamento, la rete ha già dato inizio alla fase 2. Nel prevalente anonimato di internet la discussione rompe gli argini. Ma dobbiamo davvero continuare a dirci liberi e credenti, alacri e speranzosi? chiede un altro user, facendo riferimento da un lato alla terza strofa dell'inno nazionale e dall'altro alla crescente disaffezione per la religione, alla piaga dei pensionamenti precoci e alla povertà che ha cominciato a lambire un austriaco su 8. L'inno nazionale, in quanto icona dell'identità austriaca, è caratterizzato già da un paio di secoli da un elevato grado di instabilità. Quello imperiale del 1797, musicato da Haydn, veniva adattato a ogni nuovo monarca e a ogni paese della corona. E alla proclamazione della Prima Repubblica nel 1919 venne sostituito in successione, ma anche in parallelo, da altri tre. Nel 1938, con l'annessione alla Germania, che nel 1922 aveva assunto per sé la melodia dell'inno asburgico dismesso dagli austriaci e vi aveva sovrapposto un proprio testo, l'inno di Haydn divenne pangermanico, però solo nella prima strofa, e lo restò sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E mentre tra il 1945 e il 1946 l'Austria si interrogava se riassumere la melodia haydneriana o dare un segno di discontinuità dopo il nazismo e intanto si univa al suono del bel Danubio blu, la Germania federale finì col decidere di restare con Haydn, ancorché con la sola terza strofa della variante del 1922. Alla ricerca di un nuovo inno, l'Austria individuò alfine in un'appendice alla piccola cantata massonica di Mozart, la K623, l'auspicata nuova melodia. Peccato che da quel tempo siano stati avanzati molti dubbi sulla paternità di quel coro, forse opera di Johann Baptist Holzer, un collega massone del grande compositore. Niente più Haydn, dunque, e forse niente Mozart. Caduti fra due sedie, come dicono a Vienna. Al loro posto, un controverso inno massonico, dal 1 gennaio, in grembiule anche da donna. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Flavia Foradini, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Il terrorismo islamico, scrive Antonella Colonna Vilasi nel suo libro Islam tra pace e guerra, è frutto di una visione del mondo in cui la morte assume un valore finalizzante e assoluto. È un Islam minoritario, ma che beneficia di crescenti consensi in molti paesi europei, Italia compresa. L'Islam si presenta come una religione globale al pari del cristianesimo. La legge religiosa è tutt'uno con la legge civile e gestisce tutti gli aspetti della vita di un musulmano, privata, sociale e politica. L'Islam è nato come un progetto sociopolitico e cultural-religioso. L'Islam politico permea le relazioni con i popoli e le religioni, le policies in materia di guerra e pace. A differenza di molte religioni che, confrontandosi con nuove realtà socioculturali, hanno cambiato il loro punto di vista, l'Islam è rimasto essenzialmente immutabile. Nel corso delle ultime analisi non è stata presa in considerazione in modo appropriato l'eventualità della scissione dell'Islam politico da quello teologico, soprattutto in seguito al moltiplicarsi di movimenti integralisti che in Occidente sono stati attori di eclatanti azioni. Il terrorismo islamico nasce dalla fusione tra fondamentalismo e integralismo, utilizzando la religione per fini politici. Il vero credente ha l'obbligo di diffondere e imporre la legge divina tramite il jihad, per annientare l'ignoranza del mondo occidentale e dei musulmani che non perseguono lo stesso fine, con tutti i mezzi, compreso l'annientamento fisico. Il fondamentalismo islamico crede che la scrittura sacra sia infallibile e non abbia bisogno di interpretazioni, e nega che ci sia una distinzione tra fede politica e fede religiosa. Figura cardine nel delineare l'incipit del fondamentalismo islamico contemporaneo è stato Ruhollah Khomeini, che condusse l'Iran a promotore del terrorismo islamico internazionale. Per capire il fondamentalismo islamico bisogna riferirsi a un movimento nato in Egitto nel 1928, quello dei Fratelli Musulmani, fondato da Hassan al-Banna. I Fratelli Musulmani, inizialmente pacifici, vedono nell'Islam l'unica strada possibile per un'organizzazione della società e una risposta al mondo occidentale. In un certo senso i Fratelli Musulmani sono fondamentalisti modernisti, nel senso che seguono il Corano, il libro sacro, e la Sunna, insegnamenti tratti dal comportamento di Maometto, ma cercando di adattarli alla vita moderna. La struttura interna di questa società era composta da 4 diversi gradi di affiliazione: fratello assistente, fratello affiliato, fratello attivo, fratello combattente, un grado clandestino alla base dell'organizzazione segreta. Al vertice di tutto ciò vi era la figura di un leader alla quale tutti dovevano obbedire, chiamato il Murshid Alam, guida suprema. Quando nel 1949 morì Hassan al-Banna, subentrò una nuova leadership con a capo Said Qutb, il quale rifondò il movimento, avendo come obiettivo quello di dare vita ad un nuovo potere politico rivoluzionario. Fortunatamente, dopo la morte di Said Qutb, nel 1966, i fratelli musulmani abbandonarono la violenza arrivando addirittura a condannare la strage dell'11 settembre. I fratelli musulmani affondano le loro radici nel movimento chiamato salafismo, che prende spunto da un altro movimento chiamato wahhabismo. Questo movimento, nato dagli insegnamenti di Muhammad Abdu, predica il ritorno alle origini dell'Islam storico, tramite il Corano e la Sunna, senza contaminazioni con l'ideologia politica né con interessi economici. Secondo questo movimento, le regole della religione devono essere affermate in tutto il mondo. È estraneo quindi a qualsiasi forma di razzismo, in quanto è presente una sola distinzione tra muslim, credenti, e kafir, non credenti. Assiomi fondamentali sono il concetto di salaf, base della religione, e bida, le innovazioni successive alla morte di Maometto. I salafiti costituiscono una corrente di pensiero diffuso tra i musulmani che abitano in Occidente, diventando talvolta parte integrante del confronto politico tra Islam e Occidente e costituendo anche un impulso alla lotta armata. I movimenti fondamentalisti si pongono tre obiettivi da raggiungere gradualmente: l'applicazione della legge islamica o Sharia in ogni comunità islamica, intesa come la volontà di Dio proclamata tramite il profeta, con un significato diverso del termine legge rispetto all'utilizzo nei paesi di common law, perché la Sharia è l'insieme dei doveri religiosi, politici, sociali, familiari ed individuali di tutti i credenti. L'unificazione dei paesi islamici sotto la guida di un califfo, titolo riconosciuto dai musulmani ai più alti dignitari religiosi e civili che proteggevano l'integrità dello Stato e della fede. I califfi erano i successori di Maometto. Il califfato universale è nell'Islam una delle mete da raggiungere, perseguita per secoli dall'impero ottomano. Un'islamizzazione del mondo intero. Per queste ragioni, finalità primarie del terrorismo islamico sono azioni antioccidentali e anti-israeliane, per una conquista a tout court con mezzi devastanti e armi di distruzione di massa e una propaganda penetrante, diretta ai media e utilizzando internet. Contrariamente ai paesi arabi che vogliono modernizzarsi ma non occidentalizzarsi, senza però l'uso della violenza, il terrorismo islamico utilizza la guerra, intesa come il jihad, come unica soluzione per sfuggire al colonialismo e ai nuovi colonialismi occidentali. Il jihad tende alla vittoria sull'Occidente tramite la conquista del mondo intero con la diffusione dell'Islam e la lotta agli infedeli. Molti paesi islamici fronteggiano problemi demografici ed economici tanto da spingere ad una forte emigrazione in Occidente. Altri ancora non sono riusciti a stare al passo con i tempi, con una affievolita libertà di religione e politica. Vi sono molte autorità religiose musulmane che condannano le dichiarazioni dei terroristi islamici sulla religione e il massacro di civili inermi, fomentati da un'errata interpretazione del Corano, tanto da considerarli musulmani eretici. L'Islam radicale non lascia spazio ad una convivenza pacifica tra stati, ma considera l'Islam, nel suo ruolo militante e difensore della religione, avverso alle altre religioni. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Antonella Colonna Vilasi, Islam tra pace e guerra, Città del Sole Editore, 240 pagine, 12 euro.